Linee d'ombra di Matteo Caccia. Siamo qui in Burkina Faso e una ragazza italiana che a malapena conosciamo è stata rapita da ragazzotti in cerca di soldi facili. Storie di rapimenti, pessimi insegnanti e amori clandestini in una puntata che si intitola Persecuzioni. E va bene, una donna un po' particolare, no? Per chi non la conosceva era forse un po' aggressiva, cioè era sicuramente aggressiva, però se una persona poi riusciva a entrare nelle sue grazie, quindi, ma non ci voleva molto, bastava parlare un po' con lei, si accorgeva che era una donna molto dolce, molto generosa, una donna molto tenace, che riusciva ad arrivare dove voleva arrivare, ma non con dei sotterfugi, una donna molto sincera, diceva quello che aveva dentro, se doveva dirti una cosa te la diceva, no? Non aveva mezzi termini, ecco, mezze misure, non era diplomatica però. La protagonista di cui parla questo stralcio di documentario che abbiamo trovato su Bike Channel, che è il canale che parla di biciclette, di storie di biciclette, è Giulia Occhini. Giulia Occhini è da tutti conosciuta come la Dama Bianca, è una delle storie che ha acceso il sangue degli italiani nel secondo dopoguerra, perché è stata una storia di adulterio. Storie di adulterio che oggi vanno via come acqua fresca su qualsiasi profilo Instagram o Facebook. All'epoca era una storia incredibile, soprattutto perché lui era il più grande campione di ciclismo di sempre e lei era una donna che si era infilata nella sua vita. Lei era sposata con un medico, lui era sposato con una donna che conosceva sin da quando era ragazzo, della provincia piemontese, insomma. E quindi questa è una storia che vi racconteremo oggi in questa puntata che si intitola Persecuzioni. Ve la raccontiamo perché oggi per gli amanti del ciclismo, oppure se per gli amanti di Fausto Coppi, oggi sono esattamente 80 anni, in questa giornata precisa, che Fausto Coppi vinceva la sua prima maglia rosa, che quindi lo incoronava come miglior ciclista del Giro d'Italia. E poi da lì in avanti avrebbe vinto tutto praticamente, avrebbe vinto il Tour, avrebbe vinto i campionati del mondo, appunto, insomma, Fausto Coppi non ha bisogno, come si suol dire, non ha bisogno di presentazioni. Però oggi ci divertiremo davvero a fare dei giri rocamboleschi in questa puntata. Sapete che quello che ci piace fare è mettere insieme delle storie molto diverse tra di loro, che girano intorno a un nucleo. Il nucleo di oggi è quello delle persecuzioni, e quindi sì, racconteremo la storia della persecuzione dei media, della stampa, della giustizia e di tutti gli italiani nei confronti di Giulia Occhini e dell'amore tra lei e Fausto Coppi. Ma vi parleremo però anche di un rapimento che avviene in Africa, e ce lo racconterà un nostro ascoltatore che va là, lavora per una ONG. Il racconto era molto più lungo, noi abbiamo preso giusto la parte finale, quando lui e un'altra persona di questa ONG liberano questa ragazza che veniva rapita da un gruppo di ragazzotti per chiedere un riscatto. Ricorda, se non diciamo in piccolo, la storia che abbiamo seguito tutti quanti col fiato sospeso del rilascio della liberazione di Silvia Romano, ma quello è un altro paio di maniche ancora. E poi, per parlare di persecuzione, dalle macro persecuzioni, da un tentativo di rapimento, andiamo in una scuola di 80 anni fa, in cui una maestra dice qualcosa di sconveniente, una cosa che se venisse detta oggi probabilmente sarebbe licenziata. Lo dice con una grande serenità a un bambino che la subisce davvero in malo modo. Insomma, un gruppetto di storie come tutti i giorni per cercare di andare via con la testa da ovunque vi troviate, se siete ancora in casa oppure se siete ripartiti. A questo proposito, se volete raccontarci i vostri diari della ripartenza, lineedombra@radio24.it. sostituiscono i diari della quarantena, perché di fatto in qualche modo più o meno siamo ripartiti, e quindi cerchiamo di mappare e di raccontare anche questa ripartenza. Insomma, sarà un bel roller coaster quella la puntata di oggi. Avremo un sacco di storie, il tema è quello delle persecuzioni. Mettetevi comodi, voi allacciatevi le cinture, al resto pensiamo tutto noi. Benvenuti a Linee d'Ombra. La pista che porta a Cani Combolè passa proprio davanti alla baracca di Lilli. Fra poco capiremo perché quei ragazzi parlavano di lei. Inutile dire che di Lilli non c'è nessun segno. Ci fermiamo, scendiamo. Tocco il braccio di Usman, lo guardo dritto in viso. Mon ami, gli chiedo che succede. Dobbiamo chiamare la gendarmerie, mi dice in francese lui. Perché? La domanda non è proprio fra le migliori, ma è la prima che mi viene in mente. Enzo è silenzioso, rimugina, lui conosce meglio di me l'Africa ed è stato più volte solo a parlare con i capovillaggio che di solito parlano un francese meno che scolastico e che quindi si lasciano andare presto al loro linguaggio ed Enzo riesce sempre a capire e a farsi capire. Non è uno che si spaventa facilmente, Enzo. Ricordo ancora quando nel marzo del 2013 ci fermarono al checkpoint a Savaré perché la zona era interdetta ai civili e ancora in stato di guerra. Lui insieme a Osman parlava con gli ufficiali del posto di blocco, si faceva restituire i nostri passaporti e passavamo e per tutta la nostra permanenza ha cercato di sminuire le mie paure e mostrarsi sicuro e sereno. Adesso invece perfino lui cerca conferme e sicurezze da Osman. Comincio a inquietarmi davvero, non ho un buon ricordo della gendarmeria di Bankass e preferirei non avercela intorno. Perché, ripeto, dobbiamo chiamarla gendarmeria, perché? Perché l'han presa. Mi risponde Enzo e vedo Usman annuire. L'han presa, chiedo io. Chi hanno preso? Dove? Quando? Perché? E cosa possiamo fare? Avvertire la gendarmeria? Cosa sanno quei ragazzi? Cosa dicevano? Usman non ha capito tutto quello che ho detto, solo il tono, ma mi risponde Enzo e vedo che lui annuisce. Ho capito solo poche frasi. Prima di vedere cos'è successo non avevano grande senso. Stavano dicendo che qualcuno ha preso la ragazza bianca che ha aperto questo bar qui a Canicombolè. È lei. È Lily. Merda. Per fortuna la zona era tranquilla, penso. Non c'è grande spazio per le recriminazioni. Non è colpa di Usman se qualche delinquente ha deciso una mossa simile. Ma ricorrere alla gendarmeria aiuterebbe, mi domando. Perché hanno preso lei? Qual è lo scopo? Venderla, mi risponde lui. Per pochi euro. Si rapisce il bianco e lo si vende a una banda che poi lo sposta in un altro posto, magari lo rivende a un altro gruppo e via via finché non si trova un interlocutore che possa comunicare con il ministro degli esteri di quel bianco lì e accordarsi sul riscatto. Ci sono paesi, e il nostro è fra questi, che tentano l'impossibile per portare a casa vivo l'ostaggio. Pagano sempre. Ma tutto questo non ci aiuta molto. Siamo qui, con le scarpe nella sabbia rossa del Burkina Faso. Una ragazza italiana che a malapena conosciamo è stata rapita da ragazzotti in cerca di soldi facili e quasi sicuramente è tenuta prigioniera, non lontano da noi. Dobbiamo andare noi, dice Enzo. Lo guardo come se avesse detto di essere sicuro che la terra è piatta. Scusa, chiedo. Come sarebbe a dire dobbiamo andare noi? E chi altro può farlo? Odio quando ha ragione, ma me la faccio addosso dalla paura comunque. E vedendo quanto sia verde in viso, immagino sia il suo stesso stato d'animo. E come facciamo? Chiediamo guardando Osman. Cioè, sappiamo dov'è È vicino, lontano? Chi le fa la guardia? È legata, è addormentata? E dov'è la macchina con Boca? Ci aspetta poco fuori dal villaggio, dice Osman in italiano. Partiamo di lì a poco, il silenzio è totale, la luna illumina il nostro cammino. Arriviamo al margine della boscaglia, oltre c'è un campo pieno di stoppie di miglio e poi delle capanne tonde. Ci accosciamo. Usman ci fa cenno di avvicinarsi, ci indica una delle due capanne che abbiamo davanti e dice semplicemente «è là». Abbiamo capito che dobbiamo andare io ed Enzo, lui non può compromettersi ancora di più. Annuiamo, mi si torcono le budella, un Imodium ci starebbe benissimo. Deglutisco più volte e poi ci muoviamo, attraversiamo il campo come se camminassimo su dei gusci d'uovo. Ho la schiena bagnata di sudore freddo. La domanda «chi me l'ha fatto fare?» mi accompagna in continuazione. Raggiungiamo la capanna, ci entro. È buia come fuori e ci vuole poco ad abituarsi. Non c'è molto da vedere, delle pentole, ciotole e qualcosa, forse una zappa, appoggiata alla parete. Ho quasi l'impressione di avere sbagliato capanna quando vedo un riflesso giallo sotto un fagotto in un angolo. Mi avvicino al fagotto, il riflesso giallo si rivela per quello che è un dreadlock, e sotto tutti gli altri. C'è lei, è imbavagliata ed è legata. La tocco, sussulta e mugola, cerco di farmi riconoscere, ci mette un attimo a focalizzare la mia immagine, e poi annuisce. Con il coltello taglio le gacce alle gambe e alle mani, vedo che si massaggia i polsi per far riprendere la circolazione del sangue, poi con un cenno le dico di seguirmi. Il buco da cui sono entrato promette salvezza. Lo abbiamo quasi raggiunto quando sentiamo un tonfo fuori dalla capanna e dopo qualche istante vedo la testa di Enzo fare capolino dal buco e dice «Andiamo?» «Certo che andiamo», vorrei urlare, ma lo penso soltanto. Usciamo dal buco. Ho solo il tempo di vedere un ragazzo steso a terra con un Kalashnikov a tracolla. Per un fugace infinitesimo attimo penso di sfilarglielo, poi ci ripenso e via nel campo che ci divide dalla boscaglia. Fatichiamo un po' a ritrovare il punto da cui siamo usciti e dove ci aspetta Usman. Sento Lilly tremare dietro di me. Camminiamo in fila indiana dietro Usman. Montiamo sulla macchina che Boca fa schizzare sulla pista. Non ci credo. Non ci posso credere. Stento ancora a crederlo. Ci guardiamo negli occhi, io ed Enzo. «Amico mio, l'avresti mai pensato?» mi dice. «Mi verrebbe voglia di mandarlo a quel paese, ma probabilmente gli devo la vita». Lilly deve essere svenuta. Lo shock della liberazione, dell'inseguimento, devono averle fatto perdere i sensi. Le tocco la gola, la giugulare pulsa. Sì, è solo svenuta. Anch'io sento l'adrenalina scemare nelle vene. Mi sa che svengo pure io. Come lay me down. Come heal me now. Come take this crown. I'm fine. È un po' il nostro esercizio preferito, quello di cercare di mettere insieme e tenere insieme tra loro storie molto molto diverse. Uno le può ascoltare semplicemente così, perché sono storie che compongono un mosaico complesso e variegato, oppure, per come ci proviamo noi, provare a trovare una linea comune ad ogni storia. E quindi, dopo la storia di un rapimento in Burkina Faso di una giovane donna, vi raccontiamo invece una storia che arriva da una scuola di, direi, 80 anni fa. Almeno, perché l'autore Gabriele, che vive a Recuaro Terme, ha 86 anni e la storia che ci ha mandato si intitolava Il primo giorno di scuola. È una storia molto molto breve, ma che racconta qualcosa che conosciamo piuttosto bene tutti quanti. È quando fai un errore, fai un piccolo sbaglio perché non sei preparato, perché non sei pronto, perché non hai delle conoscenze alle spalle, e qualcuno non solo ti dice che hai fatto quell'errore, ma ti tratta letteralmente come uno scemo. E quella, sì, è una forma di piccola persecuzione. Quel mattino, coi capelli ben pettinati, il grembiolino nero ben pulito e ordinato, cartella tracolla, mi avviai per il mio primo giorno di scuola. Dopo averci fatto recitare una preghiera, la nostra maestra ci fece sedere in quei banchi di legno pesanti, da due posti ciascuno, e disse di prendere il quaderno a quadretti e iniziare a fare le aste. Tutti i miei compagni si diedero da fare subito, sicuri del fatto loro. La maggioranza aveva frequentato l'asilo infantile, mentre io, poveretto, l'asilo non sapevo neppure che esistesse. Non dissi niente. Diedi solo un'occhiata in silenzio ai miei compagni, che con la testa china sul quaderno si davano da fare. A modo mio, pure io cominciai a scrivere. Se non che, la penna andava secondo la mia immaginazione. Alla fine la maestra cominciò a controllare i compiti. Tutto bene, finché non arrivò al mio. Un vero disastro. Strappò la pagina dopo aver tracciato un grande zero sopra. Quello fu il mio primo voto. Mi sgridò pure. Io tremavo come una foglia, stavo zitto. Ma quando mi disse «Ma sei scemo?», non ne potei più. Infilai la porta e scappai via di corsa. Quelli delle aule lungo il corridoio si chiedevano che cosa stesse accadendo, sentendo il rumore delle mie scarpe sul pavimento. Ritornato a casa, la mamma, vedendomi così triste, me ne chiese il motivo. Io raccontai tutto. Dissi pure che la maestra mi aveva dato dello scemo e io a scuola non ci volevo tornare più. Per calmarmi, la mamma mi disse: «Gabri, forse avrai capito male, forse avrà detto chesemo, ci siamo». «No, no, ho capito bene, mamma. Mi ha detto che sono scemo. Questa parola non me l'ha mai detta nessuno, mai nessuno. Ed io a scuola non vado più». Piano piano, con tanta pazienza, mi convinse a ritornare a scuola. E ci tornai, ma malvolentieri. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. Io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice: «Oggi c'è il tema. Oggi fate il tema sul papà». Io penso è uno scherzo, sorrido e mi alzo, le vado lì vicino. Ero contento, le dico non ricordo, mio padre è morto presto, avevo solo 3 anni, non ricordo, non ricordo. Lei sai cosa mi dice, neanche mi guardava, beveva cappuccino, non so con chi parlava. Dice qualche cosa, qualcosa ti avranno detto, ora vai a posto e lo fai come tutti gli altri. Puttana, puttana, puttana la maestra. Io sono andato al posto, ricordo il foglio bianco, bianco come un vuoto per 20 anni nel cervello. E poi ho pianto, non so per quanto ho pianto, su quel foglio bianco io non so per quanto ho pianto. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini, venite bambine, non lasciatela negare. Prendetele la mano e portatela via lontano. E datele i baci, e datele carezze, e datele tutto. Ringraziamo entrambi gli autori di queste due storie, che appunto sono molto diverse tra di loro nei contenuti e nei tempi, ma in qualche modo entrambi hanno a che fare con una forma di persecuzione, e quindi abbiamo deciso di metterle insieme. Ora ci ascoltiamo Le borse in diretta e poi torniamo a raccontare altre storie di persecuzione molto particolare qui a Linea d'Ombra. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61% ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani, anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my... Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'ombra. 80 anni fa, oggi, il più grande ciclista di sempre vinceva la sua prima maglia rosa. Si chiamava Fausto Coppi e nella puntata di oggi non vi racconteremo delle sue splendide vittorie. Vi racconteremo della terribile storia di persecuzione vera e propria nei confronti suoi e della donna che amava, Giulia Occhini, oltre che della loro storia d'amore. Questa storia bellissima noi l'abbiamo letta in un blog di Lanfranco Caminiti, autore e giornalista, che si chiama La Camera dello Scirocco. State con noi. La denuncia era ormai lì. Contro Occhini Giulia in Locatelli, di anni 31, casalinga, e contro Coppi Fausto, di anni 34, coniugato di professione corridore. L'accusa era adulterio. Era d'obbligo darvi seguito e fu subito scandalo. L'adulterio era il marchio peggiore in quegli anni. Giulia Occhini e la sua storia con Fausto Coppi, il Campionissimi, erano il concentrato di tutte le storie adultere di quegli anni per l'enorme visibilità che ebbe, data la straordinaria popolarità del ciclista, per l'accanimento dei media, per la complicata e intrigata realtà dei protagonisti, per l'aspetto drammatico che assunse e per il carattere tragico della sua fine. Coppi allora superava in popolarità qualsiasi altro campione di sport, o anche cantante o attore. È inimmaginabile oggi, ma all'epoca la fatica della bicicletta univa come nient'altro nazione e popolo. Gliela fecero pagare amara quella popolarità, però. Insomma, c'era una pancia della nazione che giudicava con ferocia Giulia Occhini. Il matrimonio rappresentava per milioni di donne un fragile argine di sicurezza. La Occhini era una minaccia, era l'altra donna, quella che poteva rubarti il marito e con lui quell'argine all'insicurezza. Settembre 1954, quando il pretore, il brigadiere, l'appuntato e il medico di Novi Ligure vanno a mezzanotte a Villa Carla, dove vivevano i due concubini, per pescarli in flagranza di reato, dopo che il marito di lei, con tanto di due testimoni, ha presentato denuncia, superano un primo cancello, poi superano un secondo. È notte. I due, ormai svegli, non si fanno beccare certo a letto. Coppi li accoglie in vestaglia, lei, che da un po' figura come la sua segretaria privata per salvare la faccia e il quieto vivere, è già in ordine. La flagranza non ci sarebbe. Però l'appuntato allunga la mano sul letto, sente che è caldo. Eccola, la prova. Su quella prova arrestano lei in nome della legge e della pubblica morale, trascorrerà 3 anni in prigione e poi andrà in domicilio coatto da una zia ad Ancona, a lui ritirano il passaporto. Su quella prova arrestano lei in nome della legge e della pubblica morale, trascorrerà 3 notti in prigione e poi andrà in domicilio coatto da una zia ad Ancona. A lui invece ritirano il passaporto. Su quella prova nel 1955 verrà intentato il processo e saranno comminate le condanne, lui a 2 mesi, lei a 3. Molti anni dopo, ricordando quella sera del 54, Occhini dirà che quella visita notturna se l'aspettavano e che per quello avevano messo tutti quegli sbarramenti, per avere del tempo a disposizione e non farsi trovare abbracciati. Rivelerà anche che dentro l'armadio c'era un doppio fondo che conduceva a un'altra stanza, un rifugio, insomma, dove scappare in casi estremi. Racconterà ancora che ad Ancona, al domicilio coatto, quando usciva per fare la spesa, le donne sputavano al suo passaggio. crosses on wooden doors. If you float, you burn. Loose talk around tables. Abandon all the reason. Avoid all. Tutto era cominciato nel 1948, quando il dottor Locatelli, medico condotto a Varano Borghi, comune del Varesotto, sfegatato tifoso del Coppifausto, l'airone che volava sulla bici, si era fatto accompagnare dalla moglie ad una gara, la Trevalli Varesine, che lui, il campionissimo, ovviamente aveva vinto, e dove lei gli aveva chiesto un autografo. Poi le famiglie si erano frequentate. Il medico e la moglie andavano a Novi Ligure, dove il campionissimo viveva con la propria di moglie, Bruna, una bella e modesta ragazza che conosceva sin da ragazzino. C'erano state lettere, tante lettere, tra Fausto e Giulia. Lei spigliata, lui silenzioso. Lei di mondo, lui un contadino nel cuore. Lei elegante, lui vestito come uno che si è appena comprato il doppio petto per la vita. Lui un campione che il mondo ci invidiava. Lei, forse, una che sentiva stretta la vita di provincia. Scoppia l'amore ed è irrefrenabile. Lo tengono nascosto, o meglio, ci provano. Lui lascia la moglie e la figlia, lei lascia il marito e i figli, vanno a vivere a Villa Carla, a Novi Ligure. Tutto rimane un po' così, sembra che il medico condotto se ne sia fatto una ragione, eppure Bruna, la moglie, forse. Si sono separati, Fausto le ha lasciato la loro prima casa, e 50 milioni, che allora sono un'enormità. Quando nel 1953 vince il campionato del mondo a Lugano, Fausto regala a Giulia, che gli sta vicino vicino, i fiori della vittoria. Quello è il primo gesto scopertamente pubblico. Prima sullo Stelvio, mentre lui scollinava, qualcuno aveva colto il grido d'entusiasmo di Giulia e lo sguardo compiaciuto di Fausto, ma era ancora solo una storia di ciclismo. Poi, al Tour de France del 1954, dopo la tappa di Saint-Maurice, Pierre Chani, giornalista dell'Equipe, scrive: «Vorremmo tanto sapere di più di quella dame en blanc, di quella dama in bianco che abbiamo visto vicino a Coppi». Lei indossava un Montgomery color neve. È lì che nasce l'appellativo con cui Giulio Occhini passa alle cronache, la dama bianca. Forse fu lì che il dottor Locatelli non ci vide più e si presentò alla caserma di Novi Ligure. Giulia, nel 55, l'anno del processo, è incinta. Con Fausto si sposano in Messico. Il matrimonio non è riconosciuto dalla legge italiana. E poi lei va a partorire in Argentina per poter dare il cognome del campionissimo al figlio, Faustino. Partorisce mentre avviene la punzonatura del 38esimo Giro d'Italia, dove lui arriverà secondo tra entusiasmi e tifoserie divise. Lei non potrà rivedere i suoi figli per anni, e così lui per la sua piccola Marina. Coppi continua a correre e a vincere, e la gente, lentamente, sembra volere dimenticare quella storia. Dimenticare, non perdonare. Quello no, non accadrà più. Per Giulia e Fausto saranno anni quasi tranquilli. Quando, per insipienza dei medici, una malaria contratta in Africa, dove era andato per una battuta di caccia nel dicembre del 59, diventa mortale e se lo porta via in un amen. Quasi quasi gliela rimprovereranno a Giulia quella morte banale. Lui, da morto, diventò leggenda. Lei, la rovina famiglie. Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato, m'hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore. perché mi hai guardato come nessuno mai. Io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu l'hai capito, visto, eri cambiato anche tu. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso. La storia che vi abbiamo raccontato, raccontata molto molto bene, l'abbiamo trovata su questo blog di Lanfranco Caminiti che si chiama La Camera dello Scirocco, ed è appunto un piccolo riassunto di quella che è una storia che le persone della generazione dei miei genitori, dei miei zii, dei miei nonni conoscono benissimo. Fu uno scandalo incredibile e davvero Giulio Occhini entrambi la vissero, con la differenza che lui era il super campione, forse il miglior ciclista di sempre. Non ricordo più quale giornalista sportivo, quando gli chiesero chi è il più forte ciclista di sempre, rispose: il più forte di sempre è Eddy Merckx, il più grande di tutti è Fausto Coppi. Ecco, lui era il più grande ciclista di tutti i tempi e lei era semplicemente una giovane donna, e quindi lei la pagò molto molto più cara di lui, e fu a tutti gli effetti una persecuzione. Ecco, chiudiamo qua questo collage di storie legate alle persecuzioni. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra. Da quando abbiamo cominciato a chiedervi i diari delle ripartenze, perché la quarantena è terminata a modo suo, poi insomma vedremo cosa succederà rispetto ai confini regionali, quando si potrà uscire, insomma al momento il lockdown, le maglie del lockdown si sono un po' allargate, e quindi da una decina di giorni vi abbiamo chiesto di raccontarci i vostri diari delle ripartenze. L'indirizzo è sempre quello: lineedombra@radio24.it. E ci è arrivato un racconto del quale sia io sia Anita Panizza siamo molto felici, perché ormai si sa, non ci vuole tanto a capirlo e a notarlo, i grandi assenti di tutto questo periodo delle riforme, dei decreti, i convitati di pietra al banchetto delle riaperture sono i bambini, sono i ragazzini, sono gli allievi, sono gli studenti delle scuole, degli asili, delle scuole elementari, delle scuole medie, delle scuole superiori, eccetera eccetera. Gli studenti, i ragazzi sono stati gli unici di fatto a non ripartire a tutti gli effetti. La scuola riaprirà forse a settembre-ottobre, sono rimasti a casa e hanno continuato ad avere a che fare con grandissime dirette Zoom, lezioni online molto complicate da seguire. Insomma, ognuno di noi, chiunque di noi abbia fatto più di 40 minuti guardando uno schermo a fare una riunione, ha capito quanto è complicato tenere l'attenzione, non essere distratta dalle mille di cose di casa. Ebbene, loro tutti i giorni si trovano a farlo per ore durante la lezione, e poi soprattutto quelli che devono fare l'esame stavano lì a sapere all'ultimo minuto cosa faranno. Ma ho amici che fanno i professori, sono molto arrabbiati, ma questo è un altro paio di maniche e sicuramente non ne parliamo noi. Noi invece vi raccontiamo storie, e la prossima storia che vi raccontiamo è proprio uno di questi convitati di pietra. È un ragazzino, non gli darei del bambino perché altrimenti ho paura che Aaron se la prenda, che ci scrive così: mi chiamo Aaron Sambo, ho 11 anni e abito a San Pietro in Vincoli, comune di Ravenna. Frequento la prima C della scuola media Romolo Gessi in San Pietro in Vincoli, e questo è il mio racconto. Lo sapete che gli asini piangono? Io l'ho scoperto guardando un video su internet. Una bella asinella di circa 3 anni dal pelo grigio e dalle bellissime orecchie nere che alla fine del lockdown, dopo 2 mesi, rincontra il suo padrone e scoppia a piangere dalla gioia. Un pianto liberatorio e straziante tra le braccia del suo amico padrone che si commuove fino alle lacrime. Sono mesi davvero difficili questi, sto Covid-19 che non si vede e ti ruba la vita. Non mi lascia andare a scuola, non posso uscire, mi proibisce di vedere gli amici. Le giornate passano lente e noiose, per fortuna riesco a seguire le lezioni online che mi permettono di vedere i professori e i sorrisi dei miei compagni. Non è come essere a scuola, ma accendendo il computer si apre la mia finestra sul mondo. Vivo con gli altri. Al pomeriggio faccio i compiti e trascorro il tempo in giardino o in camera con i miei fratelli. Ho passato momenti molto tristi, ravvivato dai miei batuffoli pelosi. Fortunatamente la mia casa è invasa da amici a quattro zampe e, contando le buffe galline, pure a due. Ho tre gatti che dormono in ogni angolo di casa e ti sanno sempre regalare fusa e code in faccia ovunque tu sia. Poi c'è la mitica Zoe, cagnolina indipendente e sbarazzina. Lei è stata il mio personal trainer per tutto il periodo della quarantena. Con lei io gioco in giardino e faccio lunghe passeggiate tra i campi. È sempre un'avventura diversa, ogni passeggiata ha qualcosa di nuovo. Ritorno spesso pieno di erba e frumento perché giochiamo a nascondino e vince sempre lei. Non ho mai provato a saltare i fossi come fa Zoe, non ho la sua agilità, so che sarei finito in mezzo alle foglie galleggianti. Sempre in questi mesi è venuta a stare da noi Pesca. Pesca è una maialina thailandese rosa a macchie nere con un enorme naso rosa sempre in movimento. Quando è arrivata pesava meno di 2 kg, ora ne pesa 9. In quarantena siamo tutti ingrassati, lei ha preso alla lettera questa frase. Invece la Peppa, che è la mia vera maialona, è rimasta sempre in giardino sdraiata tra un fiore e l'altro come se nulla fosse accaduto. Un'enorme roccia nera di pazienza sulla quale riesco a leggere e a fare i compiti. Insomma, durante la quarantena i miei supereroi sono stati i miei animali. A loro poco importa se non sai giocare bene a palla, te la riportano comunque. A loro poco importa se non puoi fare nulla, ti stanno vicino e ti fanno compagnia. Quindi vorrei chiedere al presidente del Consiglio Conte che magari in uno dei suoi 1000 decreti prenda in considerazione anche gli animali e che inasprisca le pene a chi li tratta male. Gli animali sono davvero gli amici speciali e se gli manchiamo di rispetto, i veri asini siamo noi. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling sweet sunshine, and I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new. Si chiude oggi con questo episodio la storia seriale che vi abbiamo raccontato in queste 3 settimane. È stata piuttosto breve, ma è stata decisamente molto intensa. La storia di un giovane uomo che sopravvive al tentato omicidio da parte del padre nei suoi confronti, e direi che sopravvive anche all'omicidio della madre che il padre mette in atto e che invece, ahimè, gli riesce in una mattina di ormai quasi forse direi più di 15 anni fa. È stata una storia anche difficile da raccontare, se non fosse che i toni usati da lui e da Mauro Pescio che la raccolta sono stati molto molto delicati. La domanda che probabilmente tutti noi ci siamo fatti e che si sono fatti, da come dice lui, tutte le persone che lo conoscono, è: come fai a voler ancora frequentare tuo padre dopo quello che ti ha fatto? Come fai a immaginare che sia ancora tuo padre dopo che ha ucciso tua madre e ha cercato di ucciderti e ne porti la cicatrice enorme sul collo? Bene, questa è una domanda a cui lui risponde con grande serenità. Ed è disarmante ed è nobile la motivazione che lui dà. Non voglio anticiparla, anche se è la più semplice, e la dà proprio in chiusura di questo episodio. Grazie ancora, stiamo con lui e sentiamo come finisce. Oggi mio papà ha 67 anni, li porta molto bene, nonostante tutto. Oggi non è più ristretto in carcere, ha una misura alternativa per cui sta a casa sua e ha l'obbligo di non uscire dalla nostra provincia. La sera i carabinieri passano a verificare che ci sia, ma tutto sommato è abbastanza libero. Lo vado a trovare spesso. Vive a una ventina di chilometri da me, vicino a Sassorella, e lavora in una struttura per il reinserimento delle persone che hanno commesso dei reati. Io sono sempre fuori casa e spesso mi faccio recapitare la posta da lui e gli chiedo di farmi da postino. Vado spesso a cena da lui la sera e parliamo del più e del meno. Alessandra continua a spingermi ad essere più aperto con lui, che solo così posso andare avanti, e penso che in fondo abbia ragione. Io mi sono fatto molta forza, grazie all'università, al lavoro, ma con lui so che devo fare ancora dei passi, e li voglio fare. Il ragionamento che mi sono fatto è stato che un genitore non ce l'ho più, ma l'altro sì, c'è ancora. Nonostante tutto, per me rimanere senza nessuno della mia famiglia sarebbe molto peggio di come è adesso. Ho 28 anni e non voglio stare senza nessuno. Per questo, anche se mio padre è colpevole di un delitto orribile, io continuo a provarci. Se ho ancora la possibilità di avere almeno una parte di famiglia, la voglio sfruttare. È stata la mia compagna a farmi vedere le cose da una prospettiva un po' diversa. È stata lei a ribaltare la solita domanda che mi sono sentito mille volte: ma come fai a vedere tuo padre? In perché lo vedi così poco? Dopo la laurea lui ha cominciato ad accedere ai permessi e a uscire per qualche ora dal carcere. È stato quello il momento decisivo. Vuoi davvero stabilire un rapporto con questa persona? Mi sono chiesto. E la risposta è stata sì. Io con questa persona ci voglio stare, perché è mio padre. Parlare di quello che è accaduto è difficile, ma se mi verranno delle domande cercherò di fargliele. Lui oggi è molto sofferente, è consapevole delle difficoltà, ma è presente fino in fondo e credo sia giusto così. Nonostante una mattina sia successo qualcosa di insondabile dentro la sua testa e abbia tentato di uccidermi, so che mi ama. Lo vedo da come parla con Alessandra, da come si è presentato ai suoi genitori nel giorno della mia laurea e da come mi aspetta quando lo vado a trovare. Anche io gli voglio bene. Non potrebbe essere diversamente. È mio padre e io sono suo figlio. Complimenti. Complimenti, davvero, basta ragazzi, io non li voglio dove sono. Oh. Continuo a riguardarle queste parole che sono scritte sul copione di questa puntata. Anche io gli voglio bene, non potrebbe essere diversamente, è mio padre e io sono suo figlio. Grazie per questa storia, grazie Mauro Pescio per averla scovata e averla raccontata, grazie a lui per avercela raccontata. Vanno a lui, alla sua compagna e a suo padre, i più grandi in bocca al lupo. Davvero. Ora noi dobbiamo lasciare la linea al GR, non prima di avere raccontato, di avere ringraziato tutti gli autori di questo programma: Mauro Pescio, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Anita Panizza. Diamo la linea al GR, fate un ottimo fine settimana, mandateci le vostre storie di confine e i vostri diari di ripartenza se avete voglia. Se volete risentire invece i 5 episodi della storia seriale di questa settimana, domani sera alle 21:30 qui su Radio 24 oppure in podcast come e quando volete. Ripeto, la linea al GR, torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!